Devo ammettere che Fontaine ha mostrato un certo intuito nella creazione del business dei plasmidi. Ma non ha mai capito granché di vendite. Nascondere quelle ragazzine sotto uno staio. Ho appena visto i progetti preliminari delle nuove macchine per plasmidi. E sono esattamente ciò che volevo. Ricorda le mie parole. Se ben presentate sul mercato, quelle sorelline possono valere oro. Potrei aver commesso degli errori? Una persona non costruisce città se è dominata dal dubbio. Ma si può governare con assoluta consapevolezza. So che la mia dottrina mi ha illuminato. Come so che le cose che ho rifiutato avrebbero potuto annientarmi. Ma la città sta crollando davanti ai miei occhi. Sono diventato così convinto dei miei dogmi da essere incapace di vedere la verità. Forse. Ma Atlas è là fuori e vuole distruggere me e la mia città. Avere dubbi significa arrendersi. Io non ho dubbi. Dannazione. Gli stivali del Big Daddy dovevano essere spediti qui, non alla maledetta biblioteca. Ma che razza di idioti sta assumendo Ryan ultimamente? Cazzate del genere non succedevano con Fontaine. Ryan ha inviato munizioni extra. A quanto pare teme vi siano problemi. Le ho chiuse vicino ai laboratori dei protettori e impostato il codice su 1921. Non credo però che ne avremo bisogno. Quando il Big Daddy sarà pronto, nessuno oserà fermarlo. Fontaine è morto. Peccato per Fontaine. Bene per Su Chong. Per un po' ha fatto il difficile, ma poi Mr. Ryan mi ha cercato. La Tenenbaum è finita, Fontaine è finito. Ed io sono l'unico che sa tutto sulle sorelline. Come dicevo, va molto bene per Su Chong. Fontaine è un tremendo figlio di puttana, ma Ryan è un taccagno. Non si può riutilizzare la tuta del protettore. Metti uomo, pelle, organi direttamente nella tuta, altrimenti non funziona. Ryan dice che il Big Daddy costa troppo? Beh, Ryan può andare al diavolo. La guerra è terribile. I giapponesi uccisero tutti gli uomini della mia città, ma non me. Io avevo l'oppio. E l'oppio faceva gola a parecchi. Anche questa guerra è terribile, ma non per me. Ora tutti hanno paura, tutti hanno bisogno di Adam. Più di quanto le sorelline possano produrre. La cosa buona è che la guerra fa molti cadaveri. E io so come riciclare l'Adam dai cadaveri. Ma non posso mandare le sorelline per strada non protette. Devo riflettere. Il Big Daddy emana un odore terribile, schifoso. Forse si potrebbe porvi rimedio. Ma sembra che alle sorelline l'odore piaccia. Dobbiamo trovare dei volontari. Diventare Big Daddy è una strada a senso unico. Ma Ryan dice, tranquillo, reclutare non è un problema. Quel Ryan, che bravo uomo. So perché devono essere piccole, ma perché solo femmine? Non riesco a capirne il motivo, ma so che è così. Fontaine dice che è un bagno in meno da costruire negli orfanotrofi. È sorprendente vedere gli effetti dell'Adam nei loro corpicini. Le loro cellule vengono sostituite da nuove staminali nell'istante in cui vengono danneggiate. Queste bimbe sono praticamente invulnerabili. Peccato non si sia potuto fare lo stesso su un adulto. Ci sarebbe un bel mercato per un uomo impossibile da uccidere. Ti ho davvero sconvolto con questa storia di mia moglie e mio figlio. Oh, la mia povera Moira, il mio piccolo padre. Forse un giorno mi farò una famiglia vera. Funziona bene con i babbei. Ricordo quando io e la tedesca ti abbiamo messo in quel sottomarino. Non avevi più di 2 anni. Già, eri la mia carta vincente, ma eri anche la cosa più vicina a un figlio che io abbia mai avuto. Ed è per questo che fa male. Il tradimento, ragazzo. La vita non è solamente business. You're playing a bad hand, kid. It is too spliced to smell it. Roll on back to Mother Goose now, or everything's gonna go busto. Stai giocando una brutta mano, ragazzo. È che sei troppo ricombinato per capirlo. Tornatene da mamma chioccia, altrimenti va tutto a puttane. That mug's right behind me. I don't even want to see him crawling. Last chance, kid. You pack it in now, and I'll leave this dump to you and Frau Kraut. You keep on coming, and Rapture's a fish tank. Va bene, vuoi fare a botte? Io ci sto. Ma ho tutto l'Adam che c'è in città, bello mio. E adesso mi ci faccio un bel giro. Chissà perché non mi ero mai ricombinato una sola volta in tutto il tempo che ho passato in questo acquario. Pensavo che non fosse il caso di mischiare gli affari con il piacere, ma... Al diavolo le pasticche per il naso e la cera per pavimenti con cui ho perso tempo. Questa roba è il latte materno! Questo basterà a operai e burocrati! Ma io ne voglio ancora! Ancora! Voglio ricombinarmi finché non resterà più niente da ricombinare! occhi se fossi in te. Qui non troverai altro che lacrime. Bene, ragazzo, è stato un lungo cammino. E di buona parte del viaggio manco te ne ricordi. Ti ho messo in un sottomarino che eri un pargolo. Sai, dovresti ringraziarmi. Ti ho portato io qui. Io ti ho mostrato chi sei. Nessuno ti ha detto altro che bugie finché non sono arrivato io. Peccato che sia andata così, ragazzo. Noi due potevamo essere i padroni di questo posto. Adesso non ti resta altro che un lungo e gelido nulla. Guardati attorno, ragazzo. Pensi che l'eroismo spicciolo conti qualcosa in questo cesso? Stai contemplando il mare di vomito che il sogno fallito di Ryan è diventato. Credi che ci sia qualcosa degno di essere salvato qua sotto? Allora meriti di annegare col resto di quei miserabili. Mamma Chioccia ti ha davvero manipolato. Si può dire tutto di Ryan, ma il vecchio su una cosa ci aveva azzeccato. Tu neanche cammini senza qualcuno che ti dica va. Credi che trasformarti in uno di quegli uomini di latta sia una strada a due sensi? La Krug sta facendo i provini per la parata dei Frankenstein e tu sei il primo della fila. Ora possiedo Rapture, ora possiedo l'Adam. Pensi che quella tenuta da clown possa lontanamente spaventarmi? E dove andrai? La tua vita? La tua famiglia? Sono favole, ragazzo. Non più reali di qualcosa che hai letto sul Saturday Evening Post. Povero bastardo. Un mostro orfano di madre sbattuto in un improbabile esperimento scientifico. Hai tirato troppo la corda, ragazzo. Quando sarai cadavere, andrò a casa di mamma Chioccia e la distruggerò pezzo per pezzo e mocciosa per mocciosa. Considerala la tua eredità. Guardati attorno. Non c'è niente da salvare. Rapture è un mausoleo, una maledetta giostra funeraria. E tu e la Crocca siete soltanto spettri. Solo che ancora non l'avete capito. Bene, ho sentito il rumore della voce e posso solo immaginare l'odore emanato da quei terribili feromoni. Quando avrai trovato quegli stivali da Frankenstein, sarai pronto. Vedi il sistema di controllo della tuta? Sehr gut, prendilo. Questo è il primo passo per farti diventare uno di quei disgustosi Big Daddy. L'unico modo che hai per superare la porta da cui è passato Fontaine è fartela aprire da una bimba. E si fideranno di te solo se avrai l'aspetto, la voce e persino il fetore di uno di quei grossi bruti puzzolenti. Gli stivali! Ero sicura che gli stivali fossero qui! Scheiße! Che cosa aspetti? Prendi quell'idiota! Là, dovrai usare l'ago delle sorelline per prosciugare Fontaine dall'Adam. È l'unico modo per sconfiggerlo. Good, good. Now you must go to the autopsy room and inject yourself. Alle bimbe induciamo un imprinting a certi odori, i feromoni. Ma non è la stessa cosa che usare un dopobaba. Servono 3 applicazioni industriali di quella roba. E poi le bimbe saranno attratte da te come api dal miele. Dovrai recuperare 3 feromoni così da puzzare disgustosamente, proprio come un Big Daddy. Qui troverai il distorsore vocale per emettere suoni simili a uno di quei Big Daddy, ripugnanti creature. Dopo che Ryan ha preso questo posto, è qui che costruiscono i loro luridi golem e i loro Frankenstein. Trova i pezzi della tuta, guida le bimbe. No. Always trying the simple way, but it is not so simple, is it? The Big Daddy, the suit is... it's fused. Once you become Big Daddy, you are always Big Daddy. So... Ringrazio solo di non essere vicina a te e a quel fetore pestilenziale. Come facciano le bimbe a essere attratte dall'odore di quei feromoni è una cosa che va al di là della mia comprensione. Per le bambine è meglio stare con te. Meglio con te che sole. Sole nell'oscurità strisciante. Und bitte, ti sarei estremamente grata se fossi gentile con le bambine. Mein kleines Mädchen. Sei stato gentile con le mie bimbe, ma sei davvero nostro amico? Comunque, una bimba ti offre un regalo in segno della nostra stima. Anche nel buio che si addensa, tu accendi una candela. Tu hai salvato le piccole quando avresti potuto mostrare la tua crudeltà. Ti sto inviando qualcosa per dimostrarti la nostra gratitudine. Le bimbe non hanno mai avuto un esempio, a parte me, e non è il caso di parlarne. Tu dai loro speranza, e per questo ti sono grata. Ti manderò qualcosa per dartene un segno tangibile. Ho visto cose terribili, e ne ho fatte di peggiori. Grazie per avermi ricordato che la luce del mondo non è ancora stata estinta. Ti mando una bimba ad aiutarti a procedere. L'Adam migliora ogni aspetto di un uomo, tranne il carattere. Forse esiste un plasmide capace di potenziare lo spirito. Forse nel tuo DNA risiede questo segreto. Ho mandato una bimba con dei doni per alleviare il tuo fardello. Che cosa posso fare davvero per queste bimbe? Sono una lurida peccatrice, ma tu... Forse tu apri loro un futuro che io non so nemmeno immaginare. Una bimba ti sta raggiungendo con un regalo. Fai attenzione. Solo le piccole possono aprire quelle porte. Tu devi difenderle. Fontaine è vicino. Stai per raggiungerlo. Attento! Di sicuro la raccolta desterà l'attenzione dei ricombinanti. Tieni gli occhi aperti. Attento ai ricombinanti. Presto! La raccolta attirerà i ricombinanti. Attento! Adesso arriveranno sicuramente altri ricombinanti. Si è fermata di nuovo? Arriveranno di sicuro altri ricombinanti. Ricombinanti! Arrivano! Ricombinanti! Fa attenzione! La piccola è ferita! La piccola è nei guai! La piccola, stai attento! No, l'hai persa! Che cosa hai fatto? La piccola è caduta! mi hai lasciato prendere la piccola! Se una piccola cade, puoi chiamarne un'altra da un condotto, ma perderne anche una è peccato. Ora devi trovare un altro condotto da cui richiamare un'altra piccola. Le piccole hanno preparato un regalino per ringraziarti di essere stato gentile con loro. Lo troverai in qualunque macchina Gatherer's Garden. Le piccole ti condurranno da Fontaine, ma devi proteggerle! Trova un condotto e chiama un'altra piccola! Devi attirarle fuori dai nascondigli e poi ti permetteranno di superare la porta. Su, avanti, colpisci il condotto con la chiave inglese. Che cosa aspetti? Avanti, colpisci il condotto con la chiave inglese. So many helmets here. So many little ones to protect. Cosa stai aspettando? Colpiscilo con la siringa! Vai! Vai ora! Colpiscilo con la siringa! Lascia perdere gli stivali. Pensa a trovare la tuta e il casco. Devi proteggere le bimbe. Non sono più sorrette dall'Adam e sono vulnerabili come qualunque bambino. Scheiße, l'hai fatto scappare. Ho bisogno di un momento per pensare. Ah, ma certo, questo non sarà un problema. Trova un Big Daddy ed esaminalo. Ti suggerisco di trovarne uno morto. Ora ne hai abbastanza. Was ist los? Che cosa ci fanno lì quegli stivali? Dovrebbero essere a Failsafe, Armored e Squats. Ah, non importa. Prendili, prendili! Ah, ma guardati, sembri uguale a uno di quei... Cosa abbiamo fatto? Cosa? Adesso gli stivali. Good, adesso è il momento di trovare dei feromoni per modificare il tuo odore. E dovrai anche trovare quegli stivali. Good, ora dovrai modificarti la voce e trovare un paio di stivali. Wunderbar, ora ti serve solo un casco. Stivali e tuta, devi tornare da Failsafe Armored Escorts und trovare il casco. Ora, schnell, non c'è tempo da perdere. Das ist gut, ti trasformeremo in un disgustoso Frankenstein. Bastano un casco e un paio di stivali. E saremo, come dite, a cavallo? Ma guardati, credo che presto faremo di te un Big Daddy. Manca solo un pezzo, i feromoni. Vai alla struttura educativa Little Wonders. È già qualcosa. Adesso troviamo dei feromoni e un distorsore vocale. Su, avanti! Abbiamo un lavoro da fare! Ma guardati! Credo che presto faremo di te un Big Daddy. Manca solo un pezzo. La tuta. Vai al Failsafe Armored Escorts. Una è fatta. Ne restano due. Adesso devi solo trovare la tuta e i feromoni negli altri laboratori. Hai bisogno di un invito scritto? È un buon inizio. Adesso devi solo trovare la tuta e il distorsore vocale dagli altri laboratori e diventerai un vero bruto. Muoviti. Un giù, adesso manca solo la tuta. Stivali e casco, devi tornare a Failsafe Armored Escorts e trovare la tuta, ora! Schnell, non c'è tempo da perdere! Ja, è un buon inizio. Ora vai a cercare una tuta e un paio di stivali. Ah, farai un rumore di inferno, ma è un buon inizio. E adesso ti servono una tuta e un casco. Ma guardati, credo che presto faremo di te un Big Daddy. Manca solo un pezzo. Il dispositivo di distorsione vocale nella sezione eugenetica ottimizzata. Dove credi di andare? Devi travestirti da Big Daddy prima di attirare allo scoperto le bimbe. Sì, sì, questo sì che è un Big Daddy. Sei pronto? Ora vai dalla sorellina al condotto vicino ai Proving Grounds. Let us hope the boots are here. Ah, guardale. Anche se sono fisicamente libere dal bisogno di raccogliere, il condizionamento mentale di Sushong le lega alla loro terribile mansione. Per peccati come questo, non avremo perdono. Lì si trovano le tute. Fontaine, aspetta di sopra. Da qui non potrai fare marcia indietro. Fai in modo di essere pronto ad affrontarlo prima di procedere. You're playing a bad hand, kid. You're just too spliced to smell it. Roll on back to Mother Goose now, or everything's gonna go busto. Il gonzo è proprio dietro di me! Non voglio neanche vederlo camminare! Ultima occasione, ragazzo. Falla finita e io lascio questa discarica a te e alla crucca. Continua ad avvicinarti e Rapture diventa un acquario. Andiamo, ragazzo. Vuoi fare sul serio? Hai delle pessime carte in mano, ragazzo. Sei spacciato, mi hai sentito? Dammi un secondo e ti farò sputare monetine. Forza, fa la tua mossa se vuoi farla. Sento l'Adam scorrere dentro di me. Pensi di avere il potere? Hai una lampadina da 20 watt e io sono le luci di Broadway! Credi di potermi sconfiggere? E credi che sia il tuo creatore? Quando avrò finito con te, andrò da mamma Chioccia e le sue piccole uova. Let's go! This way! Prendilo! Forza, forza! Ti prego, papà Succiotto, non voglio andare sul tavolo! Tieni, prendi questo! Infilzalo nell'uomo cattivo! Che cosa aspetti? Raccogli l'ago! Prendilo, Mr. B! Aprilo in due, Mr. B! Scucilo! Uccidilo, uccidilo! Miss Tenenbaum! Miss Tenenbaum! Tic-tac! Il tempo del coniglietto è scaduto! Ti hanno offerto tutto, vero? E in cambio ti sei comportato come mi aspettavo, con brutalità. Hai ottenuto ciò che volevi, tutto l'Adam, tutto il potere. e Rapture ha tremato. Ma alla fine nemmeno Rapture ti è bastata. Tuo padre era terrorizzato che il mondo potesse rubare i segreti della sua città. Ma tu no. Perché ora sei tu ad avere rubato i terribili segreti del mondo. Ti hanno offerto tutto, vero? E in cambio ti sei comportato come al solito, con brutalità. Hai ottenuto ciò che volevi, tutto l'Adam, tutto il potere. E Rapture ha tremato. Ma alla fine nemmeno Rapture ti è bastata. Tuo padre era terrorizzato che il mondo potesse rubare i segreti della sua città. Ma tu no. Perché ora sei tu ad aver rubato i terribili segreti del mondo. Ti avevano offerto la città. E tu l'hai rifiutata. Cosa hai fatto invece? Quello che hai sempre fatto. Le hai salvate. Hai ridato loro ciò che avevano perso. Una possibilità. La possibilità di imparare, di amare, di vivere. E alla fine, qual è stata la tua ricompensa? Non ne hai mai parlato. Ma credo che tu lo sappia.